sembrava facile, ma t'ho coraggio, dai, ce la farò. Un libro è bella, uscivi tu. Avevo il cuore in gola, ma poi è bastata una parola, una parola solo, ciao. Il tuo sorriso solo, ciao. Per cominciare solo, ciao. Per dirti amore, ma come piove, ma va là. Ti bagni tutta, vieni qua. Chi se ne frega, intanto già nasceva il sole. Vola un gabbiano, lo stesso cielo, la stessa mano. Così da sola abiti qua. Il letto tuo chi te lo fa? Scusa, ma è solo fantasia. Adesso non parliamo, mi basta dirti una parola solo, ciao. Il tuo sorriso solo, ciao. Per cominciare solo, ciao. Per dirti amore, ma come piove, ma va là. Ti bagni tutta, vieni qua. Chi se ne frega, intanto già nasceva il sole. Bastava dirti solo ciao, se lo sapevo solo ciao. Una parola solo ciao, per dirti amore. E intanto guarda su di noi, vola un gabbiano, lo stesso cielo, la stessa mano. Io da casa subito ti chiamo, rispondimi presto, rispondi ti amo. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai. Io da casa subito ti chiamo, rispondimi presto, rispondi ti amo.